Ringraziamo anche il Consiglio dei Ministri che pochi minuti fa, verrebbe da dire, insomma pochissimo fa, ha licenziato la legge di bilancio, la finanziaria per l'anno prossimo, che ovviamente ora dovrà andare in Parlamento, quindi insomma non è detto che rimanga così come è stata presentata. Il Premier Gentiloni ha parlato di una misura che non è lacrime e sangue, che è snella e farà bene all'economia italiana. Ci sono diverse misure ovviamente contenute in questa manovra, dagli sgravi alle imprese che assumano giovani under 35, alle risorse peraltro in realtà dovute per gli aumenti salariali degli statali, lo stop all'aumento dell'IVA di cui avevamo già parlato e all'aumento di nuove tasse e il rafforzamento della lotta alla povertà. Sono questi alcuni dei temi, ma ovviamente ne parliamo insieme all'economista Giacomo Bracci. Ciao Giacomo. Ciao Alessandro. Allora, è tanta la carne al fuoco, questa manovra insomma si attesta intorno ai 20 miliardi, di cui 15,7 solo per non far scattare l'aumento dell'IVA di cui avevamo parlato nelle settimane scorse. In particolare ci saranno 3,5 miliardi di tagli alle spese e 5,1 miliardi di entrate aggiuntive. La settimana scorsa parlavamo del DEF, avevamo detto che ci sarebbero stati tagli alle spese e entrate aggiuntive attraverso le privatizzazioni, e queste cifre corrispondono a quelle due diciamo linee? In sostanza sì, si tratta appunto di quello che avevamo un po' preventivato, chiaramente nella legge di bilancio poi l'aspetto delle privatizzazioni diciamo non viene ancora conteggiato e quindi le maggiori entrate spesso derivano da efficienze, per esempio c'è la questione della rottamazione delle cartelle esattoriali, ci sono questioni di semplificazione amministrativa che come sempre insomma da anni figurano all'interno della legge di bilancio come risparmi potenziali, quindi è anche possibile che in realtà il numero finale delle entrate aggiuntive legate ad altre cose che non siano le tasse possa aumentare ulteriormente. Sicuramente gli obiettivi coincidono, anche perché il voto è stato anticipato proprio per essere effettuato in contemporanea con l'invio del draft budgetary plan, che sarebbe praticamente il budget preventivo che il governo contestualmente alla redazione della legge di bilancio invia alla Commissione europea, e quindi la dimensione, come dire, europea della manovra è chiaramente visibile da questo. Ecco, veniamo a uno dei punti di cui si parla di più, che è quello già annunciato in realtà, degli sgravi alle aziende per chi appunto assume giovani under 35. Si configura un taglio del 50% dei contributi per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato. Ora, visto che la questione degli incentivi per chi assumeva, abbiamo visto col Jobs Act, non ha funzionato nel momento in cui finivano gli incentivi e quindi le aziende smettevano di assumere, e c'è il rischio che questa misura abbia una dinamica simile? Assolutamente sì, si tratta dello stesso film riproposto, anche perché peraltro si discute ancora su quale sia la soglia dell'età che fa in qualche modo che include diciamo coloro che sono a beneficio della decontribuzione. C'è peraltro un meccanismo in cui si dice che fino al 50% sarà la decontribuzione per il centro-nord e fino al 100% per il sud, quindi si tenta in questo modo di cercare di incentivare al sud, ma poi appunto c'è incertezza rispetto alla soglia finale, si dice 35, ma potrebbero essere anche 29 o 32 a seconda poi della forma che la manovra prenderà in via definitiva, ma si tratta sempre diciamo della stessa meccanismo che poi è legato anche alla questione dei superammortamenti, cioè quello di cercare di incentivare la domanda di lavoro e la domanda di beni capitali attraverso la detassazione alle imprese, per cui è una forma, diciamo una via alla crescita che in questo non si discosta minimamente da quanto era avvenuto per le precedenti manovre, e soprattutto diciamo in virtù del fatto che nei prossimi anni appunto ci sono sempre previsioni potenziali legate alle entrate, ci sono previsioni sul PIL che come dicevamo la settimana scorsa sono anche più ottimistiche di quelle previste dai maggiori istituti internazionali, ci si può anche attendere che in virtù della necessità di rientrare poi da queste decontribuzioni per ridurre il disavanzo rispetto a quanto preventivato, chiaramente una volta terminati gli incentivi una misura non strutturale come questa porta all'inversione della tendenza, quindi alla riduzione delle assunzioni e anche potenzialmente a dei licenziamenti. Se uniamo tutto ciò con il fatto che chiaramente tutto l'impianto normativo degli ultimi governi è stato volto a facilitare il licenziamento, ci rendiamo conto che queste misure appunto riescono a dare un respiro di breve termine che può durare qualche mese, massimo un anno, ma poi difficilmente riescono a rimanere in piedi. Ecco, sempre per quanto riguarda il lavoro, sono stati, se non sbaglio, stanziati 100 milioni per la cassa integrazione straordinaria, poi c'è la questione del rinnovo del contratto degli statali che insomma aspettano da più di 7 anni, se non sbaglio, rimane fuori, e questo ha sollevato alcune polemiche da parte dei sindacati, la questione delle pensioni. Ecco, come valutare queste misure? Sì, assolutamente. Parto dalla questione delle pensioni perché è lampante, nel senso che il ministro Poletti ha proprio dichiarato testualmente che la previdenza non è nelle priorità di questa legge di bilancio. Una manovra sulla previdenza che invece è attesa da moltissimi anni, se non altro almeno dalla introduzione della famosa nonché famigerata legge Fornero. L'unica misura rispetto alla previdenza della quale in qualche modo si inizia a parlare, ma non ci sono rispetto a questo delle istruzioni operative, è una possibilità di sconto sulla famosa APE social di 6 mesi per ogni figlio per le donne per un massimo di 2 anni. Quindi si tratta di piccolissimi avanzamenti, diciamo, su una strada che comunque conduce ad una riduzione generale del diritto alla previdenza, e anche l'APE, come sappiamo, è una misura come dire, che tenta di mettere una pezza su quello che è stato poi una riduzione dell'intervento pubblico in materia, e quindi diciamo una sorta di soluzione alternativa rispetto a chi era stato colpito dalla legge Fornero. Per il resto l'aumento dei dipendenti pubblici era chiaramente una misura attesa, che anzi appunto da anni si attendeva. E c'è anche un intervento sugli investimenti pubblici che viene quantificato in 300 milioni di euro per il 2018, 1,3 miliardi di euro nel 2019 e 1,9 miliardi nel 2020. Chiaramente tutte cifre che dopo il 2018 vanno prese cum grano salis, perché naturalmente possono essere soggette a revisioni per i fattori di cui parlavamo prima. E nel complesso, un po' similmente a quanto dicevamo per il DEF, sembra un po' una manovra che tenta di amministrare l'amministrabile, cercando di dare quelle concessioni che comunque venivano attese da anni, ma sempre per quanto riguarda il minimo sindacale, ma che non cambia quella che è l'impostazione di fondo, che è quella comunque di cercare di incentivare le imprese ad investire attraverso manovre di breve periodo. Permane anche appunto, come dicevamo, il superammortamento, soprattutto quello a 250% sui beni capitali di lungo periodo, e quindi c'è anche il nuovo credito d'imposta cosiddetto 4.0, si rimane sempre su questo tipo di solco, un solco che peraltro comunque viene anche discusso in sede europea, come abbiamo ricordato molte volte. C'è da tempo la questione spinosa della decontribuzione in busta paga, che invece sembra una strada che non è molto seguita negli ultimi anni, e viene confermata questa tendenza. Ecco, quindi insomma confermiamo quello che dicevamo la settimana scorsa: siccome è l'ultima finanziaria prima delle elezioni, qualcosa cerca di fare, ma deve sempre fare i conti con l'Europa. Esattamente, è un po' come dicevamo, un basso profilo comunque di carattere elettorale, nel senso che si cerca di non scontentare nessuno, ma logicamente non si va al di fuori di quei paletti che vengono imposti dall'Europa, e anzi si tenta comunque di preservare lo status quo per evitare che ci siano degli sconvolgimenti prima delle elezioni. Si tenta di andare avanti, diciamo, come si è andato avanti finora.